Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci tornati con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre a parlare di tasse. Ne parliamo spesso, è uno degli argomenti anche più gettonati sul nostro sito, però la domanda che ci si è fatti è: ma quante sono? E purtroppo la lista è molto lunga. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, diamo subito un numero. Quante sono queste tasse imposte? Questa volta provare a contare è stata la strategia di Mestre, perché veramente riuscire ad elencarle tutte per un'impresa. E il numero che è apparso è veramente un numero a tre cifre, e sono esattamente 100. Sostanzialmente sono 100 tra quelle che pagano i cittadini normalmente e quelle che pagano le imprese, ma che normalmente, a parte vedersi aumentare tutti gli anni o vederne istituite di nuove, con la, poi l'intento di sopprimere qualcuna di vecchie, in realtà poi scopriamo che all'aumentare delle tasse alla fine della fiera diminuiscono i servizi. 100 tasse sono tante, magari alcune sono di pochi centesimi o di pochi euro, alcune invece che conosciamo bene, insomma, sono molto più incisive sia per i cittadini privati che per le aziende. Ma si può calcolare, immagino sia stato fatto anche, quanto incassa lo Stato da tutta questa miriade di balzelli? Allora, innanzitutto il conteggio delle 100 tasse è fatto tra addizionali, imposte e ritenute, tasse e tributi. È chiaro che il nostro sistema tributario è molto frammentato, però è chiaro che solamente le prime 10 imposte valgono circa 413,3 miliardi ed è l'87,5% del totale delle entrate tributarie. Poi il resto, abbiamo altre tasse che per un ammontare di circa a 164 miliardi di euro, ma complessivamente i cittadini devono sapere che le entrate complessive del bilancio dello Stato, il famoso bilancio di previsione che periodicamente si fa per poi determinare quelli che sono gli interventi economici, si attesta in circa 800 miliardi all'anno, questo effetto anche per le dismissioni, multe e quant'altro. Certamente, ragionando come cittadino e ragionando come impresa, ci sono delle tasse che risultano particolarmente odiose. Per quanto riguarda i cittadini, le peggiori sono l'IRPEF, che è l'imposta sui redditi delle persone fisiche, e certamente l'IVA, in particolar modo poi adesso che hanno aumentato l'IVA al 22%. E solamente la prima, l'IRPEF, garantisce 164 miliardi di euro, mentre la seconda poco più di 93. Poi per quanto riguarda le aziende invece abbiamo l'IRAP, cioè l'imposta regionale sulle attività produttive, che assicura 33 miliardi di gettito l'anno, e l'IRES, che è l'imposta sul reddito delle società, che anche queste messe assieme consentono di incassare circa oltre 65 miliardi di euro all'anno. Il problema è, come spesso ha detto anche il governo in queste settimane, quando si è discusso dell'aumento dell'IVA, anche una revisione complessiva, perché qui si sono accumulate nel corso di decenni di vita repubblicana, ma anche prima della Repubblica c'erano già delle accise sui carburanti, c'erano già i tempi di Mussolini per la guerra e per alcuni terremoti, cose che però sono rimaste, quindi si sono stratificate queste tasse che si continuano a pagare. Ma guarda amico, il fatto di quello che dice il governo, sostanzialmente scopriamo che poi alla fine si dice sempre la solita presa in giro. Noi pensiamo all'ultima, quella di 2 anni fa, quando avevano istituito l'IMU, che l'IMU doveva essere imposta municipale unica ed essere una tassa che ne doveva raggruppare tre. Quasi esattamente, l'IPEF comunale, la tassa sui rifiuti e l'ICI. Cos'è accaduto invece? La tassa dei rifiuti è aumentata del 12%, l'IPEF comunale è aumentata fino al 0,6-0,8% e l'IMU l'hanno trasformata, l'ICI l'hanno trasformata in IMU, mantenendola quindi unica e non raggruppandole, però hanno aumentato la tassa dei rifiuti e hanno aumentato, scusa, la vendita catastale del 60%. Oggi sull'IMU c'è un discorso aperto, ma sicuramente verrà ripreso il prossimo anno. Questo cosa sta a significare? Sta a significare, e io mi unisco a quello che è il commento anche fatto dal CGA, come sostanzialmente all'aumentare delle tasse non c'è un aumentare dei servizi, ma c'è una carenza che ormai sempre più i cittadini, le famiglie e le imprese ne stanno prendendo atto, ma basta pensare nel privato per capire che già quando si tratta di doversi curare o spedire un pacco si è costretti sempre più a rivolgersi ai privati rispetto che alle strutture pubbliche. Quindi il sistema non funziona sostanzialmente. Poi perché io mi preoccupo? Perché se una volta c'erano un certo numero di contribuenti fatto tra persone che lavoravano ed imprese che lavoravano, oggi dove la disoccupazione è aumentata in maniera sbalorditiva, i redditi sono disponibili sono sempre inferiori, le imprese che chiudono o sono migrate all'estero sono tantissime e lo Stato vuole continuare a mantenere un bilancio su quelli che alla fine sono rimasti a dover pagare, come avere un'autostrada dove invece di percorrere 100.000 macchine al giorno ne percorrono 60.000 e tu vuoi mantenere un'entrata, non so, di 1 milione di euro. Queste sono cifre che non si possono riproporre, ma oggi su questa in un modo di far bilancio ancora non si è fatto dei seri interventi e le continue correzioni, che anche l'ultimo di 1,6 miliardi di euro cioè, lo danno a testimoniare, quindi portando sempre più sull'astico le famiglie e le imprese che lavorano. Oltre 400 miliardi dicevi il totale, poi ce ne sono alcune che magari non vanno allo Stato, mi viene in mente la tassa per i consorzi di bonifica che sono locali, anche quelli sono pochi euro all'anno che non tutti devono pagare ma alcuni sì, quindi aggiungiamo anche queste altre voci. Spulciando, credo che tra queste 100 tasse ci siano quelle conosciute e anche quelle sconosciute come ad esempio una che mi pare sia molto curiosa da segnalare. Sì, certamente quando tu scopri e vai a analizzare queste cose qua trovi delle tasse veramente incredibili, per esempio pensiamo a quella tasse sulle emissioni sonore degli aeromobili, che è una tassa molto curiosa in ambito regionale. Insomma, la questione è molto complessa e speriamo che venga sfoltita intanto per riorganizzare meglio le cose, per renderle anche più efficienti, che ci siano delle tasse giuste da pagare in misura e in proporzione equa per tutti quanti. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, settimana prossima altri due argomenti con voi. Grazie, Camilo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.